Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. La parte inferiore dello zaino, della cartella e di ogni altro tipo di supporto deve rimanere al di sopra dei glutei. Sono tempi duri per la scuola, alle prese con i tagli, studenti e professori che continuano a protestare in piazza, dibattito ancora tutto aperto anche sulla questione delle classi ponte, tornato alla ribalta questa settimana con le dichiarazioni di Berlusconi che si dice favorevole. Ebbene, con tutte queste cose importanti di cui parlare, sappiate che c'è una proposta di legge che vede all'articolo 2 proprio questo, che la parte inferiore dello zaino deve restare assolutamente sopra i glutei. Proposta che ora viene esaminata dalla 7ª Commissione Cultura della Camera e non vi diciamo chi rappresentata perché davvero non vogliamo entrare in un ginepraio politico che non ci interessa. E davvero prescinde dal colore politico del presidente della regione Sardegna il piacere di sentire che ci sia qualcuno che parla, come sentirete fra un attimo. La notizia è questa: 35 milioni per il potenziamento del tempo pieno. Li stanzia la finanziaria della regione Sardegna, che però si impegna a controllare che le scuole destinino i soldi non ad attività ludiche, ma al potenziamento di quelle competenze di base in cui i nostri ragazzi risultano carenti secondo tutte le ricerche internazionali. Ci siamo fatti una chiacchierata con il presidente della regione Sardegna, Renato Soru. Beh, abbiamo caratterizzato i primi 4 anni di questa legislatura esattamente in questo, nella riqualificazione della spesa. Abbiamo cercato di risparmiare nel sistema della pubblica amministrazione regionale in tutti i modi possibili. Abbiamo cercato di riqualificare la spesa e abbiamo liberato risorse che principalmente abbiamo deciso di investire sulla scuola. Diciamo che il futuro passa necessariamente da un miglioramento del capitale umano, passa dall'investimento del capitale umano, passa dalla crescita della conoscenza della nostra società, e quindi siamo conseguenti e in questo investiamo, in questo stiamo scommettendo. Non è una cosa di quest'anno, è una cosa che abbiamo fatto progressivamente negli anni scorsi. Quest'anno investiamo ulteriormente un po' di più, e cioè le discussioni di queste ultime settimane non ci hanno fatto cambiare idea, anzi andiamo avanti su questa strada con altrettanta e se non maggiore convinzione. Ecco, dicevamo, una scelta coraggiosa, quella di investire nella scuola, una scelta non solo di quest'anno ma anche degli anni precedenti, perché bisogna investire, insomma, perché stornare proprio sulla scuola parte degli investimenti piuttosto che altrove? Perché è un investimento nel futuro, perché è l'unico investimento possibile, perché possiamo avere anche una strada un po' meno bella, anche un aeroporto un po' meno bello, meno luccicante, anche dei parchi giochi meno interessanti, ma l'investimento più importante in una società attualmente, lo è sempre stato, ma oggi ha maggior ragione, è quello sulla scuola, perché dalla scuola, dalla scienza passa una cittadinanza più responsabile, passa una crescita, una democrazia migliore, passa certamente la capacità di creare dei posti di lavoro migliori e più duraturi. Ed in particolare molti di questi soldi verranno destinati, come spiegava poco fa, al tempo prolungato. Ecco, sì. Perché in particolare dare soldi e investire soldi in questo specifico settore dell'istruzione? Guarda, stiamo investendo questi 35 milioni sul tempo prolungato, perché vogliamo reagire a quella che è un ritardo strutturale non solo della nostra regione o di altre regioni del Mezzogiorno, ma è dell'Italia. Se confrontiamo i dati sull'apprendimento dei nostri ragazzi secondo gli standard internazionali, secondo le statistiche OCSE PISA, vediamo che i dati italiani sono sorprendentemente negativi. Sono in fortissimo ritardo e i dati del Mezzogiorno lo sono ulteriormente. Quindi stiamo cercando di aggredire questo ritardo sulle competenze di base OCSE PISA. Le competenze di base sono la capacità di comprendere un testo scritto, la capacità di risolvere un problema logico-matematico, la capacità di cosiddetta di problem solving. Sono 4 capacità di base e noi stiamo aggredendo queste, e queste non le si possono aggredire nel normale orario di insegnamento, ma ha bisogno proprio di un approfondimento, di uno sforzo maggiore che tutti assieme dobbiamo fare, gli insegnanti e gli studenti e le loro famiglie. E perché questo sforzo sia più efficace, oltre a questi soldi stiamo investendo anche sulla formazione degli insegnanti proprio su queste competenze perché possano garantire un maggior successo di questi programmi. Come fate ad essere sicuri che questi soldi destinati al tempo prolungato le scuole non li destinino a scopi insomma non proprio non troppo utili, a gite scolastiche, attività ludiche, insomma come farete a controllare che vengano gestiti bene dalle scuole? Perché abbiamo fatto uno standard regionale per questi corsi e quindi questi programmi questi soldi vengono dati alle scuole esclusivamente per attivare questi programmi che vengono seguiti costantemente anche dagli uffici regionali e a fine anno facciamo una grande campagna di test secondo gli standard anche qui internazionali che si chiamano i test IVALSI per vedere quanto siamo cresciuti in queste competenze di base. Quindi insomma controllerete che di questi 35 milioni non venga sprecato neanche una briciola? Neanche una briciola, anzi a fine anno facciamo pure i test ai ragazzi e vorremmo avere la soddisfazione di vedere il risultato. È estremamente importante perché sappiamo tutti ormai, lo diciamo, lo denunciamo, c'era sui giornali anche le scorse settimane, quanto non solo molti ragazzi si perdono per strada e quindi il livello di successo scolastico sia estremamente modesto in Italia rispetto ad altri paesi con cui ci confrontiamo e con cui competiamo, ma anche dei ragazzi che apparentemente raggiungono il successo scolastico, cioè si diplomano e magari anche con dei voti non bruttissimi, poi la loro capacità logico-matematica è molto più bassa rispetto a quelle di altri paesi, la loro capacità di comprendere un testo scritto e di lettura è più bassa e quindi dobbiamo migliorare la qualità dell'apprendimento. Ecco, e anche per migliorare il tempo scuola, perché insomma sappiamo che la realtà è quella che le famiglie devono comunque affidare i loro figli alla scuola per molte ore dovendo lavorare tutto il giorno e che questo tempo scuola sia però gestito in maniera qualitativamente alta. Direi con un obiettivo preciso. Nel nostro caso, con un obiettivo preciso, migliorare le competenze di base, sottoporle ad un test di fine anno e fare in modo che siano più vicine agli standard europei, molto più vicine di quanto non lo siano oggi. 26.525 euro è quanto hanno guadagnato i nostri insegnanti in media nel 2007. Insomma, i nostri prof sono quelli che guadagnano meno nella pubblica amministrazione, meno di vigili del fuoco e personale dei ministeri. La media OCSE è di 34.800 euro. In Svizzera ne guadagnano 56.500. Fanno peggio di noi solo Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca, Turchia ed Ungheria. Guadagnano poco dunque, ma i nostri professori si ammalano sempre meno. I dati di assenza nel mese di ottobre fanno registrare quasi il 40% in meno rispetto ad ottobre 2007. Sarà contento Brunetta. Riordino degli istituti tecnici e professionali, ormai ci siamo e sono attesi a breve dal ministro Gelmini i regolamenti attuativi, regolamenti che si baseranno sul lavoro di una commissione presieduta da Alberto De Toni. Uno degli obiettivi è quello di ridurre anche gli indirizzi, pensate che per gli istituti tecnici abbiamo ora 320 indirizzi, che diventeranno però solo 11, per i professionali avremo solo 7 indirizzi. Eccola allora la nostra intervista ad Alberto De Toni. Noi abbiamo concluso i lavori adesso, dopo un anno, da quando siamo insediati, abbiamo previsto due filiere, l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale. La prima si concentra sullo sviluppo delle tecnologie e delle tecniche e la seconda si concentra sullo sviluppo dei settori delle filiere industriali. Quindi sostanzialmente abbiamo che il discriminante nell'ambito degli indirizzi dell'istruzione tecnica sono le tecnologie, perché avremo gli indirizzi meccanici, gli indirizzi elettrici, gli indirizzi tessili eccetera, mentre dall'altra parte abbiamo sostanzialmente dei settori riconducibili al primario, al secondario e al terziario, quindi abbiamo ad esempio le produzioni industriali artigianali, abbiamo i servizi per l'agricoltura, i servizi di assistenza e manutenzione tecnica, i servizi per la ristorazione eccetera. Quindi da una parte le tecnologie, dall'altra parte i settori di destinazione. Da una parte abbiamo la prevalenza dei contenuti tecnologici, dall'altra parte la prevalenza dei contenuti diciamo di settori riguardo al servizio e commercializzazione eccetera. Ecco, questo è in grande sintesi lo spartiacque tra i tecnici e i professionali. Altro obiettivo forte è quello di legare maggiormente scuole e territorio, ma come? Beh, abbiamo previsto un comitato tecnico scientifico dove possono esserci presenti anche persone esterne, abbiamo previsto l'istituto avrà il suo comitato tecnico scientifico, abbiamo la possibilità di chiamare esterni per portare delle testimonianze e quindi c'è la possibilità di contaminarsi in maniera decisiva col territorio. Ecco, poi è previsto anche, attenzione, l'attivazione dei poli tecnico-professionali che sono sostanzialmente in ambito regionale, ce ne sarebbe uno per settore, non so, il grande settore della meccanica, dell'elettronica oppure il settore del tessile, secondo ovviamente sono le regioni competenti, ma e attorno a questi grandi poli tecnico-professionali c'è la convergenza di istituti tecnici, di professionali, degli interessi ovviamente anche delle categorie economiche, quindi il polo diventa un raccordo territoriale ancora più forte. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12:45.